26 novembre 2014 la Delegazione Internazionale di Donne in Rojava incontra le donne dell'Accademia Star delle Donne. In particolare abbiamo parlato con Dorsin, che è una delle responsabili dell'Accademia. Accademia Star a Romani. Yani fikir ve zamanında ideoloji. Yani neden ideoloji? Aslında fikir, fikir. Hatta yani en yani frektör bir şey, jeneoloji. Bas yani jeneoloji, jeneoloji ideoloji dinam kuda digre, paradigma dinam kuda digre, bas ne ideoloji? Yani frektör, ne zaman? İdeoloji ne ekleyici cidden getirdi be, bas jeneoloji, zanas ne ekleyici frektör, ideoloji cidden getirdi be yani. L'Accademia è il luogo dove si tramandano i saperi, le scienze e la consapevolezza delle donne, cioè la ginologia. L'ideologia femminista è parte della ginologia. Ben bu sefer işteyiz, hani işten dolayı. Yani Rojava kurusunda çanda perverde heye, bir tane çanda perverde işin heye. Yani demek derece, beri kuş uğraşçıyı be. El çant bu bas yani el rabbi ne ki şöyle şekli Rojava Kürdistan gibi şey bu. Beş devi dezer sizde el akademi hat avakını. Okey tamam. Ya yani aslında tam en beş niziki tusa niziki tusalı el akademi hat ya vekili. Prima della rivoluzione c'erano già scuole e centri di formazione per donne, ma non ci bastavano. Uno o due anni fa abbiamo iniziato a costruire strutture dove le donne potessero studiare, veramente. Questa accademia è stata fondata nel febbraio del 2012. Armanca avakrına akademici, yek yani azadiye jiniçiye, emligu çesası jiyanlıktı. Yani derdeyici, emjiyaneki çağıdı fazla. Sistemeki azadan çağıdı fazla. Yani Bersiva bir persici ne tava demokratik bu. Yani ne tava demokratik de jın çavacı kudukra. Uno degli scopi dell'Accademia è quello di interrogarsi su cosa hanno bisogno le donne per diventare libere, per vivere una vita libera. Che tipo di vita vogliamo? Quale sistema di libertà vogliamo? Come deve essere un sistema in cui vivere libere? La risposta a questa domanda è strutture democratiche. Poi ci siamo chieste, all'interno delle strutture democratiche, le donne come possono avere il loro spazio? Yani peşengi ve sistemi, yani çağı avalıkın dışarı esas, yani Armanca gişti akademi el bu. Dışarı esas ki peşengi jın, dınavi sistemde peşengi jın. Yani Armanca evet bu peşengi jın avalıkın bilgileri. Così, all'interno delle strutture democratiche di cui ci stavamo dotando, abbiamo creato spazi per i bisogni delle donne. Appunto per rispondere concretamente alle domande su come le donne possono prendere spazi e quali ruoli possono ricoprire. Yani perverdiğin konu tab devlet avaldı ki madfastan jder veri sisteme ki perverdi avaldı dedi. Ben amime ye perverdici di servie salsa. La ragione per cui abbiamo creato questa accademia in modo separato è che volevamo costruire la nostra formazione con i nostri programmi, partendo da noi come donne, individuando i temi su cui volevamo lavorare, i nostri bisogni ed interessi. Yani bir sürece dirokçalı hatiyeni insandım. Yani ev dirokçalı hatiyeni insandım. Diroka netevci deyine dayım. Netev? Yani netev... İşte cihane bak. Na na, netev, netev etnis, hatta etniste bir çekici derbastı ki ve simetler minak, netev akıllı. Faccio un esempio. La prima domanda che ci siamo poste è stata: perché stiamo studiando? E la storia? Come è stata scritta? Quindi abbiamo iniziato a studiare tutta la storia, a partire dall'antichità fino all'attualità, anche la storia del popolo curdo, dal Neolitico fino ai giorni nostri. Poi abbiamo studiato la storia delle donne in tutto il mondo e anche la storia delle lotte delle donne. E ci siamo chieste dove fosse la storia delle donne all'interno della storia ufficiale. Perché le donne non erano menzionate? perché la storia delle donne era invisibile? گیشتی جهانی ده چه هتی جیان کردن نسبی اساسی هم ده بیلی پیش رجی هنی بی کلی شون داده ایدی ام تفاظن جیانه که چه جیان مثلا نتا و دموقراتیک چیه Poi abbiamo parlato di genere, dei generi all'interno della società. Dopo aver studiato la storia delle donne, siamo arrivate al presente, a studiare la situazione in cui siamo in questo momento, a tempo attuale, concreto. Cosa significa un sistema democratico? Qual è il sistema e quali sono le strutture che abbiamo costruito qui in Rojava? Per esempio, come deve essere la giustizia in un sistema democratico? Cosa significa in un sistema democratico vivere una vita libera? Cosa significano economia ed ecologia? E un sistema di autodifesa? Abbiamo individuato le domande e poi abbiamo iniziato a rispondere. Evari demokrasi ders kılı aslında film tamaşa edirken, yani belge film tamaşa edirken, canlı seminer şey gibi, yani canlı şöbür şey gibi. Yani ben demek ki çaba, yani ben demek ki jiyan pratikte bu ana derbası kılınca bana jiyan başkırın hınak dersen de. Jiyan o her yerde, nam her yerde. Sisteme dantına dersi canla şagırtın kütteyi, yani fandavanın kudar vadatı, canla evdibin mamuste, canla mamuste de bir şagırt. Yani Nell'accademia la vita quotidiana è parte dello studio. Per esempio, la mattina studiamo, poi facciamo sport, la sera a volte guardiamo film insieme, o facciamo dei seminari, o delle visite. Viviamo insieme la vita quotidiana e anche questo è parte della formazione. A volte le studenti diventano insegnanti e le insegnanti diventano studenti. A volte i ruoli si cambiano, le une imparano dalle altre. Proviamo a porci tutte sullo stesso livello. Non è che le insegnanti sono insegnanti e le studenti sono studenti. No, non c'è soggetto e oggetto nel nostro modo di trasmettere. Le une imparano dalle esperienze delle altre, così è possibile scambiare ruoli. I vecchi sistemi dividono l'insegnamento in due ruoli, insegnante e studente, e la vita è divisa in una parte teorica e in una parte pratica. Ma qui tutti si incontrano, imparano le une dalle altre e così la vita diventa più completa. Her cari duguhurem, jibel ku am sazi sazi dini endama. Minak becer endama asayiş enen. Ligur pratika ku heyi, am ligur bi erdikir. Roj di erdikir. Sabit, biz tu ser roja. Bes liguri pratiki, mesela anha revşe am şerdana. Le donne vengono qui da tutto il cantone del Gisire. In ogni cantone c'è un'accademia star di donne, ce n'è una anche nel cantone di Kobane e nel cantone di Afrin. Normalmente le donne vengono qui per 23 giorni, ma ora è diverso. In questo momento ci sono donne della Saish che sono venute a causa della guerra. Vogliono avere maggiori conoscenze, imparare e scambiare. Per questo hanno un programma di 15 giorni, in modo che più gruppi possano venire. Di solito vengono qui a studiare donne di diverse provenienze o di varie organizzazioni. Ora qui a studiare ci sono 50 donne, poi ci sarà un cambio. Loro andranno a combattere e verranno altre 50 donne. Le Saish sono combattenti, sono la polizia auto-organizzata, stanno principalmente ai checkpoint, lavorano insieme alle IEPG, le unità di difesa delle donne. Lassi man piros. Una domanda da parte di una di noi. All'Accademia vengono solo donne giovani? No, di tutte le età. Per esempio, quando vengono le donne dei consigli delle donne Yekiti Astar, è molto interessante. Ci sono donne di 18 anni e donne che ne hanno più di 60. Vengono insieme, imparano insieme, insegnano insieme. Lo scambio di esperienze è molto interessante. Le donne della Saisha hanno dai 18 anni di età in su, fino ai 30. E le donne che vengono hanno anche differenti background culturali. Alcune hanno studiato, stanno studiando, altre non hanno studiato. Tutte le donne di ogni struttura possono venire e studiare qui, solo donne. Per esempio possono venire le sindache o le donne di diverse organizzazioni, dei consigli delle donne o diversi gruppi di lavoratrici e così via. Ogni volta vengono le donne che fanno lo stesso lavoro. Perverde girdiye yani şevşeveleri demine. Jiyaneki ça kan peki bir fikir. Navideri cikken niye uteliye? Du odehne o her bir odeci yani ekip eki heba dengel her bir ince heba. Le donne vengono qui e vivono qui tutto il tempo per 15 o 23 giorni. Ci sono varie camere, in ogni camera ci sono 5 donne. A causa delle condizioni di guerra in cui viviamo in questo momento, le donne fanno anche i turni di sorveglianza di notte per proteggersi, perché può succedere qualsiasi cosa. Per cui anche le donne di 50 anni o più fanno il servizio di sorveglianza. Fanno tutto insieme durante il periodo in cui stanno qui. Una di noi della delegazione internazionale di donne domanda: tutte le donne possono scegliere di venire qui o devono essere delegate? No, yani dervişi mesela ne tane sen ben sazı yakayım. Değil, serleden ilo gidiyor. Önce kapı gidiyor. Bes yani si può venire anche come individue, non devi appartenere necessariamente a un'organizzazione. Si può partecipare per propria scelta, bisogna solo aver scelto di fare qualcosa con e per le donne. A volte è qui che le donne trovano che cosa fare per le altre. Ed è possibile venire più di una volta? Migliaia di donne vogliono studiare all'Accademia, donne singole, donne che lavorano per le organizzazioni. In generale sì, è possibile, ma al momento moltissime vogliono venire. Allora, lascia che ti faccia una domanda io. Se una donna viene 4 volte all'anno e un'altra non può avere spazio, pensi sia democratico? Chiediamo. Possono venire anche donne di altri paesi? Possono venire anche donne di altri paesi, ma non è facile. Comunque devono vivere in questo paese. Un'altra domanda. Come è strutturato il programma? È lo stesso per tutte o alcune parti sono differenti? Solo la storia delle donne è un tema fisso. Per il resto il programma cambia a seconda degli interessi delle partecipanti. Per essere professionali, il che vuol dire essere preparate, essere in grado di discutere. Dipende dall'interesse di coloro che vengono. Per esempio, il gruppo delle Asaish, che sono qui ora, vogliono lavorare soprattutto sulle strutture democratiche, cosa vuol dire essere un corpo di polizia in una democrazia radicale. Con loro discutiamo anche molto di ecologia. Per tornare alla domanda di prima, possono venire anche donne di altri paesi. Per esempio vengono donne arabe o siriane, perché abbiamo in comune la possibilità della lingua e la possibilità di avere scambi. Anche alcune donne dal cantone di Afrin sono venute. Per una straniera, se ha la possibilità di avere qualcuna che le traduce, se fa richiesta di partecipazione all'Accademia spiegando i perché, può venire. Ma in questo momento non abbiamo la possibilità a causa della lingua. Inoltre preferiamo avere le donne del cantone. In passato delle donne turche hanno chiesto di partecipare all'Accademia, ma non c'era nessuna che parlava turco con cui poter fare degli incontri e degli scambi. E continuiamo a chiedere, ma come funziona l'insegnamento? Quando un gruppo di donne arriva, si decide il programma insieme? Si parla in cerchio? No. Come ho già detto, l'insegnamento non è nella modalità soggetto-oggetto. No, non facciamo dei cerchi. Abbiamo un'aula con dei posti a sedere e un tavolo di fronte, ma anche io a volte mi siedo dal lato delle studenti e una studente si siede in cattedra e parla alle altre. Le studenti, cioè le donne che vengono per imparare, insegnano anche e noi impariamo. Per esempio nell'insegnamento della storia delle donne e della storia in generale, quando parliamo le une con le altre, io parlo con te e il modo in cui tu mi guardi e ascolti, questa anche è storia. Il modo in cui mi guardi racconta una storia. Ciò che avviene tra noi due è storia. Una volta è venuta una nonna e mi ha chiesto, per te cosa significa la storia? E io ho risposto, io e te insieme, questo è parte della storia delle donne. Proviamo a farlo insieme, praticare insieme la teoria, unire tutte le opinioni delle persone, delle donne, cosa ognuna capisce, cosa per lei significa la storia. Non in modo teorico, non ciò che bisogna imparare in teoria, ma cosa ognuna ha da dire sulla storia. Potete venire a vedere un'aula. Entriamo nell'aula, ci sono le donne della Saish che stanno facendo lezione. Una di loro si alza e ci dice: siamo molto contente che siete venute perché vorremmo che si parli di questa rivoluzione, la rivoluzione delle donne in tutto il mondo. Anche le donne da fuori possono venire e partecipare e prendere forza da noi, da quello che stiamo facendo qui, perché non abbiamo strutture rigide e chiuse, vogliamo essere democratiche, aperte e condividere. Per questo siamo contente che siete venute dall'Europa, perché ciò che stiamo facendo qui potrà influenzare anche l'Europa. Ed è grandioso che si possa scambiare, potete farci domande, noi possiamo farvi domande ed imparare le une dalle altre, condividere esperienze. Questo per noi è un segno positivo perché siamo donne e siamo felici se le donne ovunque nel mondo continuano o fanno una rivoluzione come la nostra. Un'altra Saish ci dice: anche io vi do il benvenuto e sarei contenta se poteste visitare le nostre ferite e i nostri feriti, perché hanno avuto un ruolo molto importante in questa rivoluzione nel difendere e resistere. Sarebbe utile se le incontraste, per vedere di cosa hanno bisogno, quali medicinali, parlare con loro per vedere com'è la situazione. Sono le nostre rivoluzionarie e i nostri rivoluzionari, hanno combattuto a Kobane e in altri posti. Io come Asaish faccio il mio lavoro, con i miei pensieri sono con Ocalan e vi ringrazio per essere qui. Una di noi dice che sappiamo che la situazione della guerra è molto pesante e che comunichiamo loro che abbiamo portato delle medicine, non molte, ma un po', per quello che ci era possibile. Un'altra donna si alza e ci dice: anche io vi do il benvenuto e vorrei sapere e capire perché avete fatto un viaggio così lungo per arrivare qui. Rispondiamo: nei nostri paesi lottiamo per cambiare il mondo e siccome voi siete riuscite a cambiare la vostra parte di mondo siamo venute. Ci sentiamo più forte qui. Ciò che state facendo voi è molto più forte del viaggio che noi abbiamo fatto per arrivare fin qui. Avete fatto la rivoluzione, state subendo un attacco. Quindi siamo venute qui per imparare e condividere, per scambiare esperienze su come è possibile che le donne cambino il mondo. جوان هز بکن جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه هم اوینن جیانن لاسیمان پیروزه لاسیمان پیروزه جوان هز بکن مینا سرکی گشن جاوا زمزم پاک ملا باقچا بین ترن جوان هز بکن جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه جیانن لاسیمان پیروزن هم اینن جیانن لاسیمان پیروزن جنجیان آزادیه جنجیان آزادیه هم اینن جیانن لاسیمان